Avete sentito che a lettura delle prime pagine scoppiettante, dinamica, poi è arrivato anche un raggio di sole qua alle mie spalle dalla finestra, come vi confermavo dopo la nebbia, a volte c'è il sole. Tutto questo è merito di Carlotta perché è arrivata in anticipo. Buongiorno a tutti e a tutte. Sì, Erika lo chiama acquario, io lo chiamo film horror. Esagerata, guarda, è arrivato anche il sole, magari per merito tuo la lettura delle prime pagine è stata più scoppiettante, perché quando trovo qualcuno che non arriva puntuale, ma arriva addirittura in anticipo, mi pervade un entusiasmo che, come puoi ben sentire, diventerà poi motivo di miglioramento anche per il nostro format. Speriamo. Abbiamo bisogno di buona compagnia perché il nostro viaggio inizia ora ed è lungo, andata e ritorno. Bologna, Trieste, Trieste, Bologna. Trieste, capitale giuliana, Trieste, capitale mitteleuropea come Vienna, come Praga, come Budapest. Trieste porta verso l'Oriente e soprattutto una città che ha visto diversi dialoghi tra le diverse espressioni artistiche. Qual è la mostra che andiamo a presentare, Carlotta? Allora, la mostra si intitola Monaco, Vienna, Trieste e Roma, il primo Novecento alla Revoltella, che ovviamente è la sede espositiva dove si terrà la mostra. Esattamente. È stata inaugurata il 25 gennaio, se non sbaglio, e durerà fino al 2 settembre di Quindi quest'anno, ovviamente. Ampio spazio, ampia possibilità per visitare non solo una mostra che va a concludere un nostro percorso, non di viaggio, ma anche artistico, e soprattutto ci dà la possibilità di conoscere una città meravigliosa che tu non hai mai visto. No, infatti dobbiamo andare, dobbiamo andare. È bellissima Trieste, una piazza, Unità d'Italia, che è qualcosa non solo di poetico ma anche di imponente, con queste luci, questi riflessi sul mare. Veramente fa il paio con Piazza San Marco, è un concetto architettonico completamente diverso, però le emozioni restano altrettanto grandi. La città del Liberty, la città della cartellonista, la città, come vi ho detto, per quanto riguarda la porta d'Oriente, la città dei traffici commerciali con l'Oriente, la città che per questo motivo di intersezione probabilmente ha visto non solo arte figurativa ma anche tanta... ma anche tanta letteratura. Sì. Ne parleremo di questo incontro più tardi. Intanto ci avviciniamo a questo percorso che va a concludere la nostra passeggiata all'interno del primo Novecento e fine dell'Ottocento. Abbiamo conosciuto le avanguardie, abbiamo conosciuto il realismo magico, che già in parte comprendeva quello che è stato definito un ritorno all'ordine, ovvero una specie di abbandono delle avanguardie, di alcune forse avanguardie, è invece un ritorno a questa tradizione culturale e artistica del Rinascimento italiano. Importantissimo. Fra l'altro non sì. È certo un motivo reazionario di analisi artistica, ma è un motivo anche di dissenso nei confronti di alcune avanguardie che flirtavano con quella che sarebbe stata una dittatura. Beh, detto questo, vediamo un po', anzi ascoltiamo un po' cosa intende Laura Carlini Fanfogna quando si parla di ritorno all'ordine. Chi è Laura Carlini Fanfogna? È la direttrice del Museo Revoltella di Trieste. Sentiamo le sue parole. Città importanti, Monaco, Vienna, protagoniste a Rovigo con le secessioni. A Trieste un ritorno all'ordine. Che cosa si intende, direttrice, per ritorno all'ordine? Ma il ritorno all'ordine significa l'abbandono delle avanguardie storiche per ritornare a quella che era la grande tradizione culturale e artistica del Rinascimento italiano. E in una città mitteleuropea come Trieste come viene vissuto tutto ciò? Allora, è molto interessante perché di fatto la città e la mostra è proprio incentrata su questo aspetto, aveva alle spalle questa grande tradizione mitteleuropea, che significava che gli artisti erano abituati ad avere come punti di riferimento le secessioni di Monaco e di Vienna, tant'è che normalmente si recavano a studiare nelle accademie artistiche di queste due città, ma non solo. Alla fine della Prima Guerra Mondiale la città cambia completamente governo, passa dall'Austria all'Italia, e molti artisti triestini che avevano avuto il primo periodo secessionista invece si orientano verso Roma e quindi si orientano a questa ritrovata classicità, al Novecento italiano, tant'è vero che alcuni dei principali artisti triestini, facciamo un nome, Marusic, transitano appunto da questo linguaggio secessionista a quello del Novecento italiano e diventano quasi principali rappresentanti di questo movimento. Quindi la mostra si chiama Monaco, Vienna, Trieste, Roma per questa ragione. parlava di motivi di dialogo anche fuori onda con il nostro principio di viaggio nel Novecento con le avanguardie russe, con Revoluzia, ma farei un passo indietro, Carlotta. Non so se l'ho presentata con te, le secessioni a Rovigo. Sì, abbiamo presentato insieme. Sì, appunto. Sono quattro città anche in questo caso: Monaco, Vienna, Praga e Roma. Alla Roverella. Che però mi sa che adesso è già terminata. Sì, beh, l'abbiamo presentata inizio stagione. Una mostra importante che infatti apre la porta, se vogliamo, anche a questo percorso. Dopo aver vissuto le secessioni in maniera non tanto rivoluzionaria quanto di uscita dalle accademie e soprattutto come cambiamento di metodo espositivo. Il via poi ufficialmente all'avanguardia, vissuta in maniera progressista dalla rivoluzione d'ottobre, vissuta in maniera nazionalista invece nell'Europa occidentale, beh, con il realismo magico e anche con quello che succede a Trieste ci sarà un ritorno all'ordine. Non mi piace la parola ordine, diciamo di più, ritorno al classicismo. Sì, tra l'altro sia nella mostra di cui appunto avevamo parlato a Rovigo, sia in questa qua c'è proprio una sezione dedicata alla secessione romana. Sì, che è particolare perché è molto minuta, se vogliamo, essendo Roma ovviamente in esplosione più totale con il futurismo, quindi la prima e ufficiale avanguardia nata in Italia. E quello che esula dal futurismo, che sarà appunto racchiuso anche nella mostra che viviamo a Trieste, è a sua volta una frangia di ritorno. Una frangia di ritorno che la troviamo con emozioni non semplicemente rinascimentali, come frettolosamente magari si può racchiudere come descrizione, ma anche tra post-impressionismo, divisionismo, insomma ci sono tante sfumature che vanno al di fuori di quella che è la principale avanguardia futurista. E invece a Trieste, che come vi ho detto prima sono più vicini al Liberty, alla déco, alla struttura decorativa e all'aspetto estetico, la cartellonistica pubblicitaria avrà grande importanza a Trieste, beh, non solo quello. Allora cominciamo a vivere la città e trovare i motivi di divergenza con quello che era lo stereotipo a proposito di Trieste. Appunto, ci può essere anche una risposta invece a quelle che sono le avanguardie che da lì a poco avranno il sopravvento come futurismo, come tante altre, insomma, cioè andare avanti ma allo stesso tempo voltarsi indietro. Sì, la mostra, devo dire, esplora diverse sezioni e diversi temi, tra l'altro quello del lavoro. La cosa curiosa, e questo ci dice anche gli orientamenti in termini di acquisizione delle collezioni, la mostra, per dire, non ha nessuna opera dei grandi cartellonisti triestini, di Metrikovic, di Dudovic. Questo è singolare perché naturalmente forse all'epoca il cartellonismo non veniva considerato una forma d'arte ma semplicemente un'attività nel mondo della pubblicità, ma anche successivamente il museo non ha pensato di collezionare questo tipo di opere. E come si diceva alla conferenza stampa, le assenze sono significative tanto quanto le presenze. Manca per esempio tutta la parte di artisti come Chernigoy e quindi di artisti collegati al mondo del Bauhaus. Questo in fondo perché Chernigoy era di origine slovena, della matrice slovena della città, e di conseguenza nel ventennio fascista la minoranza slovena certamente non era facilitata. Beh, la mostra è già aperta, sì, ha inaugurato il giorno 24, ci sono un'ottantina di opere e sono organizzate in sette sezioni, per cui c'è un'area dedicata alle diverse secessioni, un'arte dedicata ai grandi maestri del Novecento italiano, tra cui i capolavori del museo, ad esempio il Meriggio di Casorati, il Pastore di Sironi, Carrà, la spiaggia, eccetera. E altrettanto ci sono i novecentisti di origine giuliana come Carlos Bizà. Poi ci sono alcuni personaggi, alcuni artisti molto singolari come Arturo Nattan e Gino Parin o come Bolaffio, che hanno segnato quello che è l'arte giuliana del Novecento con la loro singolarità. E Parin e Nathan erano di origine ebraica e purtroppo sono deceduti perché furono deportati nei campi di concentramento entrambi, e questa loro in fondo scomparsa, ricollega la mostra del Novecento, che è un antefatto, all'altra mostra che è sempre sul quinto piano della Revoltella, è dedicata ai disegni della Gerdy Dachau di Zoran Musić. Come conquisto il cuore triestino in trattoria all'offerta di un bicchiere di Cabernet? La mia risposta: buonissimo, ma preferirei qualcosa della vostra regione, che so un coglio. Del resto il Cabernet è friulano, quindi non azzardatevi di andare a Trieste e dire qui siamo in Friuli, perché siamo nella Giulia. Friuli Venezia Giulia, Friuli e Giulia sono due zone ben distinte e separate della stessa regione. Beh, una storia assolutamente importante. Tutte queste realtà non devono essere divisive. È buono il Cabernet come buono il Coglio, è bellissimo il Friuli come è bellissima la Giulia, per cui scambiamo queste bellezze, non teniamole chiuse per noi, evidenziamole certo, ma non per separarle, per unirle. Sono stato bravo? Sì, tra l'altro anche Emilia Romagna. Esatto, io sono emiliano e sono emiliano, dichiaro di essere padano, e quando sento che il nome Padania è abbinata a certe cose mi viene un nervoso. Io a caso ho la bandiera di San Marco, ma non perché sono leghista, assolutamente, perché credo che la Repubblica Serenissima sia stato per la cultura e per l'arte un momento fondamentale. È che questi simboli ce li hanno rubati, ma sono nostri. Lo so. Mamma, poi un po' noi ci abbiamo messo di tutto per farceli rubare. Comunque, va bene. Non siamo stati molto intelligenti. No, non è colpa del destino vile, cinico e baro, ci abbiamo messo del nostro. Io ringrazio ancora una volta Laura Carlini Fanfogna per questa presentazione. Chi è? È la direttrice del Museo Revoltella. Revoltella ricorda il revolver, no? Era un nobile ricchissimo di Trieste, anche grande imprenditore. Pasquale Revoltella. Sì, che conosceremo tra pochissimo, perché nell'ultima parte di intervista troviamo come questa realtà in espansione, fra l'altro, sarà sempre più vicina alla città di Trieste, che non è solo arte figurativa. No, in realtà, infatti, il quinto piano del Museo Revoltella Bella, che di solito appunto è riservato alla pittura e alla scultura, quest'anno si propone di analizzare invece i rapporti che si sono instaurati tra artisti e letterati proprio attivi a Trieste a cavallo tra il XIX e il XX secolo. E parlando di letteratura triestina si fa spesso riferimento appunto a tutti quei fitti rapporti di amicizia che si sono creati fra queste due categorie intellettuali, se così posso definirle, che per esempio si instaurarono nei caffè, nei leggendari caffè di appunto di impronta viennese, no? Che adesso ovviamente non penso esistano ancora. No, purtroppo. C'è ancora una traccia. C'è tante librerie giustamente a Trieste, una grande città di cultura. Trieste. Dobbiamo andarci comunque. Sì. E in questi caffè si svolgevano tantissimi dibattiti appunto culturali, sia ai tempi del dominio austriaco, sia negli anni venti. Possiamo notare per esempio una grande amicizia tra Italo Svevo, Umberto Veruda, tutti questi, insomma. Tra l'altro Italo Svevo è stato uno degli avanguardisti letterati del primo Novecento, se così posso dire. Non sono una critica letteraria, però sì, per non parlare di Joyce, ma perché entrambi utilizzavano quella tecnica narrativa, no? Il flusso di coscienza. Esatto. Infatti si sono molto ispirati a Freud, quindi la loro scrittura era molto di impianto psicanalista, ecco. Psicanalitico e psicanalista. Esatto. E noi ringraziamo tanto Alex Marcolla per queste. per i suoi insegnamenti sono. Certo, bisogna imparare da chi è ben più informato da tempo. Anzi, queste belle cose bisogna conoscerle assolutamente. E poi adesso bisogna bocciare di meno, hanno detto. Sì, ma se bocciamo ancora meno, poi voglio dire, non è che creiamo una generazione. No, è meglio bocciare, così si insegna a studiare. Io sono stata la prima ad aver perso un anno al liceo. Brava, io diversi, perché volevo specializzarmi, hai capito? Io pure. Mia nonna diceva: studia, che di ignorante sono abbastanza io, mentre invece adesso a sua volta tramando questa cosa ai giovani, cioè studiate, che di ignoranti basto io. Beh, per quanto riguarda l'ultima parte di intervista, come vi ho detto, conosciamo una nuova sede espositiva per la prima volta sulle nostre frequenze, il Museo Rivoltella di Trieste, e quanto sia importante per la città. Sentiamo le parole di Laura Carlini Fanfonia, direttrice del museo. A questo punto, visto che è la prima volta che ci occupiamo del Rivoltella di Trieste, ci può parlare un po' di questa sede espositiva? Allora, il Museo Rivoltella è un museo di impianto ottocentesco ed è dovuta alla generosità del barone Pasquale Rivoltella, il quale era un grande imprenditore, era un self-made man ed era un uomo di grandissime visioni. Tant'è vero che fu al centro delle principali imprese dell'Ottocento triestino, la fondazione del Lloyd di Navigazione, la fondazione della Compagnia Assicurazioni Generali, e fu anche un grande investitore nel taglio dell'Istmo di Suez, tant'è che divenne vicepresidente della Compagnia del Canale. Perciò era decisamente un uomo di grandi prospettive. Quando decise di non avere eredi, decise di donare il museo alla città, fece costruire dall'architetto Hittich il Palazzo Rivoltella, che era la sua casa, dove abitò fino alla morte, la fece progettare perché in prospettiva diventasse un museo. Lasciò le proprie collezioni e lasciò un'enorme quantità di denaro, tant'è che il Rivoltella era un museo ricchissimo fino alla Prima Guerra Mondiale e aveva diritto di prelazione nell'acquisto delle opere alle Biennali di Venezia. Immaginatevi, quindi era un cliente veramente di riguardo. Poi invece negli anni 60, desiderando espandere il museo, Carlo Scarpa progettò l'ala nuova cosiddetta, che trova collocazione in un palazzo ottocentesco adiacente a quello del barone. Infatti c'è un transito tra i due edifici, e però internamente completamente ristrutturato. L'idea di Rivoltella all'epoca, l'idea di Scarpa all'epoca rivoluzionaria, era che mano a mano che si saliva da un piano all'altro, il museo a sei piani, si dovevano aprire degli squarci di visione sulla città. Il museo è in pieno centro città ed è a ridosso delle rive, quindi a ridosso del mare, e quando si arriva agli ultimi piani con terrazze a gradoni si ha un panorama completo sul mare e la città. L'idea era quindi di aprire il museo all'esterno, anche visivamente, e di metterlo in relazione diretta con il proprio intorno urbanistico, quindi con l'intera città. Quindi c'è un filo conduttore molto legato a Trieste? Certamente, c'è un filo conduttore molto legato a Trieste, e però Trieste oggi riprende quella che è la sua tradizione culturale più autentica, che è di città, come si dice sempre, ponte, di città aperta al mondo, ai traffici. Non dimentichiamo che di questi giorni il fatto che la città e il porto di Trieste diventano uno dei terminali della via della seta cinese, quindi come ai tempi del barone Revoltella fosse stato aperto l'istmo di Suez, così oggi di nuovo c'è un'altra enorme possibilità per la città, che è quella di essere un punto di rilievo dei traffici internazionali globali. Fino a quando resterà aperta la mostra? La mostra al quinto piano, quindi il primo Novecento, rimane aperta fino al 2 settembre, la mostra di Music, essendo i disegni invece più delicati, fino al 2 aprile. Bene, noi la ringraziamo tantissimo per la partecipazione alla nostra rubrica in mostra e ci diamo appuntamento per un'altra esposizione. Grazie direttrice. Perfetto, grazie, buona giornata. Buona giornata. Muggia, Castello Miramare, Piazza Unità d'Italia, una gastronomia eccezionale, la bellezza del mare, la bellezza del Golfo Giuliano, la bellezza di questa mostra, Monaco, Vienna, Trieste e Roma, al primo Novecento, in una sede espositiva che abbiamo conosciuto per la prima volta oggi, giovedì 1 febbraio, Museo Revoltella. A Trieste, grazie a Laura Carlini Fanfogna, direttrice della stessa sede espositiva, la possibilità di aver conosciuto anche tanti artisti che, legati al territorio, molto spesso restano in secondo piano, ma che meritano invece assolutamente la posizione di protagonisti. È sempre bello conoscere non i soliti noti, che ovviamente non devono mai mancare, ma anche qualche outsider di grandissimo talento, come questa mostra ci dà la possibilità di fare. Ma la cosa bella è anche che questo incontro tra arte e letteratura si può notare proprio in queste sezioni, in queste due sezioni, perché la guida è affidata proprio agli scrittori, pertanto ad ogni dipinto noi possiamo vedere collegato una poesia, una prosa che descrive appunto la vita dell'artista e le sue opere. È per me fenomenale. Beh, sì. Quando c'è intersezione, sì. Poi, tra l'altro, a volte lo facciamo con il jazz, oggi l'abbiamo voluto fare con la letteratura. Ma è quella divisione che non deve mancare, non deve esistere, come dici tu. Ma deve esserci, esatto. Come tradizione, ma non deve assolutamente essere qualcosa che allontana, anzi che avvicina e porta al dialogo. Se prometti che non ridi nella seconda parte, tra pochissimo, ho fatto un'intervista in inglese e la traduco in tempo reale. Rido sicuro. Lo so. Al Must è tra pochissimo, come William al Must. È così, al Must è mostra meravigliosa, non ci crederete, non ci credevo neanch'io. Tra pochissimo la presentazione di questo grant, di questo contest fotografico. Restate in frequenza sui 103.1, Carlotta Calarese, William Piana, Breakfast Club in mostra. ovvio che non bisogna prendere tutto come oro colato, e ci mancherebbe, ed è anche bello il confronto, la discussione, il dissenso se portato in maniera civile. Io non ho mai approfondito più di tanto le esposizioni al MAST per un semplice motivo. Uno, perché la mostra e la rassegna fotografica è qualcosa che esula, tra virgolette, dall'aspetto figurativo che di solito noi trattiamo, e questo è un aspetto tecnico. E poi, se vogliamo, e aggiungiamo che questo aspetto fotografico si intende una rappresentazione di lavoro, giustamente intesa come estetica del lavoro, intesa come industria, intesa come produttività, intesa come forza industriale. Onore al merito alla famiglia Seragnoli, che ha fatto cose meravigliose per la nostra città e non solo, importantissime. Teniamo presente il fatto che dietro il lavoro, seppur molto rispettato, seppur molto considerato, seppur in certi casi anche esteticamente valorizzato grazie a queste esposizioni, c'è anche tanta fatica. Nella maggior parte dei casi c'è anche sfruttamento, non ci sono solo isole felici come troviamo molto spesso, se vogliamo, nella nostra città. Purtroppo è innegabile, sempre meno. Onore al merito alla famiglia Seragnoli, che ha fatto tanto, anche tantissimo dal punto di vista sociale. Onore al merito alla possibilità che dà a cittadine e cittadini bolognesi, e non solo, di poter frequentare e godere di esposizioni fotografiche. Non è detto che in maniera universale tutte e tutti abbiano le stesse emozioni davanti a queste esposizioni, per cui è giusto comunicare ed è giusto soprattutto condividere e anche dissentire su quello che è un gusto personale. In questo caso, invece, con grande piacere, grande obiettività, secondo me, e anche grande onestà intellettuale, vi dico che al MAST c'è una mostra eccezionale. Nasce da un contest, nasce da un grant fotografico del 2018 tra industria e lavoro, dove finalmente l'industria e il lavoro sono intesi anche per aspetto di panorama visivo con la città, aspetto di produttività ma di fatica e di sacrificio allo stesso tempo, aspetto di riflessione per quanto riguarda la soggettività di intesa nelle stesse manifestazioni, in questo caso cromatiche, di cui ci parlerà Carlotta. E questa mostra soprattutto era ed è, scusate, destinata a giovanissimi fotografi. Di cosa si tratta, Carlotta? Allora, è una mostra che è stata, è la mostra anzi dei finalisti del concorso, appunto, come hai detto tu, Grante, e hanno annunciato i vincitori, che sono appunto questa ragazza che si chiama Sara Sinar, non so dire il cognome, e poi ha vinto anche Soei Nishino, giusto? È già un mio idolo lui, eh. Esatto. Allora, lei, Sara Sinar, è nata in Canada ma vive a New York, è una ragazza veramente giovanissima, pensate, dell'annata 85, quindi ha poco più di 30 anni e neanche. E lei con un video è tante fotografie ci fa entrare, diciamo, in un'azienda di cosmetici, e all'interno dei meccanismi della produzione di questi cosmetici, ma soprattutto lei si pone degli interrogativi, parte dagli interrogativi, ovvero quanto c'è di noi nella visione di un colore. Riprende filosofie del linguaggio di Wittgenstein, che tra l'altro io ho studiato da pochissimo, quindi ecco, ieri ero contentissima perché riuscivo a capire effettivamente cosa volesse dire, ma anche filosofie come Bachelor, insomma tantissime. Cioè lei, diciamo che parte da interrogativi come: quali dinamiche di potere sono legate all'uso e alla riproduzione del colore e del make-up, quindi in un aspetto di femminilità, nella nostra cultura. Cioè, se la nostra percezione dei colori fondamentali può essere erronea, perché secondo lei non tutti vediamo allo stesso modo uno stesso colore, cioè, è bellissima, veramente bellissima, vero, sì. È così. È assolutamente vero, ma infatti Wittgenstein, questo filosofo, nella sua filosofia del linguaggio diceva proprio questo, nel senso che ok, il colore è stato socialmente determinato, cioè noi sappiamo che una mela può essere è rossa, no? Anche verde. Ma anche verde, sì. Ma sono categorie già prestabilite, ma in realtà possiamo vederle anche, possiamo vedere colori anche diversi, certo, perché appunto è tutto dipende dalla nostra percezione, quindi c'è una soggettività talmente alta che è sconvolgente. Lei riprende proprio questo tema e lo analizza anche da un punto di vista della femminilità, per questo lei appunto vede il make up, produzione di cosmetici. Insomma, è stata una bellissima mostra, in realtà. Ti è capitato di... È una bellissima mostra, perché abbiamo la possibilità di visionarla fino al... Ve lo diremo tra pochissimo, perché non ho le date. Fino all'1 maggio. Fino all'1 maggio. Quindi, già in primavera inoltrata. No, volevo dire, ti è mai capitato, a me spessissimo, di discutere, non dico bisticciare, però discutere semplicemente perché... Ma per te è lilla, viola o rosso? Per me è rosso. No, guarda che è viola, eh. No, ma come fai a dire che è viola? Cioè... Il colore è soggettivo e guardando appunto queste fotografie si ritrovano tra contrasti e allo stesso tempo sfumature, quanto sia vero che il colore è soggettivo. Ma infatti io consiglio anche una lettura, ovvero La nerezza del nero di Goodwin, un altro psicologo, filosofo che ha trattato proprio il tema del colore. E noi abbiamo un'altra esclusiva oltre al mio inglese. Tra poco abbiamo la disponibilità di interviste per la prima volta, penso, dal MAST. E beh, noi tradotte, attenzione, tradotte. La mia invece è tradotta dal vivo, on air. Ripetiamo il nome dell'artista. Allora, lei si chiama Sara Sinar. Sentiamo. Scritto CWYNAR. Un po' come il Cinar, ma è un'altra cosa, un'altra, se vogliamo anche più saporito. Mi ero scordata di dire che lei ha fatto anche un film, ovviamente, che si chiama La fabbrica del colore, quindi... Sentiamo la traduzione dell'intervista. Si è parlato appunto del testo, no, in auditorium, dove Sara diceva che è stata una parte molto importante, forse la parte più forte, più importante del video sul colore, sui materiali che portano colore. E effettivamente il testo avrebbe potuto essere ancora più ingrandito, ma avrebbe occupato tutta la sala. E perché tutto questo? Perché questa importanza al testo? Beh, le immagini sono sicuramente seduttive, sono belle, ma alcune di queste immagini forse non importano più a nessuno. Invece il testo ci spiega proprio le motivazioni, perché dover soffermarci un attimo a guardarle. Rappresenta un po' la connessione con la storia del colore e esprime più che altro il fallimento della lingua per descrivere il colore, nel senso che in generale non sappiamo descrivere col linguaggio il colore, possiamo solo rapportarlo a determinati oggetti, tipo dire, non so, rosso come una mela, però vediamo tanto e non riusciamo a descriverlo, il colore, nella maniera più adeguata, quindi è abbastanza questo il motivo per cui è stata data così tanta importanza al testo. With the cosmetics ones, I'm sort of trying to insert more objects into this already overcrowded still life image, especially the... Nel video, al contrario delle foto, vediamo un'evoluzione, un po' come guardare un programma di cucina in televisione. Invece nelle foto abbiamo tante immagini ferme e abbiamo anche dei flaconi, per esempio, rivestiti in bronzo, flaconi di profumo. E questo per riformulare, diciamo, forse una storia. E perché? Ho cercato in qualche modo di rianimare queste foto di cosmetici, queste foto vecchie con cose più contemporanee. Sono foto degli anni 50, 60, 70, dove l'idea era quella di produrre tanto a beneficio di qualche cosa che adesso non sappiamo bene che cosa fosse, non sappiamo nemmeno se abbia avuto dei buoni effetti questo produrre così tanto. E c'era comunque un ottimismo nello stile, nel design di oggetti che poi sono andati sparendo col tempo. E il mio tentativo è stato di inserirmi all'interno di queste rappresentazioni. bellezza quindi del panorama industriale, indubbiamente. Vedere una serie di capannoni, il contrasto tra i colori, vedere anche la precisione della punta di un trapano va benissimo, vedere come il mandrino stringe esattamente questa punta. Ma io vi posso assicurare una cosa, che quando l'hai fatto per 25 anni per 10 ore al giorno, è una bella estetica, però magari preferisci anche vedere un Raffaello, eh? Però ovviamente è giusto esprimere la propria opinione, il proprio parere, trovare dissenso, trovare condivisione, perché secondo me la libertà nella critica artistica è fondamentale. Oh. Il confronto è fondamentale. Beh, necessario. Mi sfogo, perché ma come non ti piace? Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Vabbè, caso strano chi lo dice, di fabbrica ne ha fatta poca. Comunque, no, siamo stati frettolosi, nel senso che sono 4 gli artisti e 2 hanno avuto l'ex aequo primo premio, sì. Anche gli altri 2 molto bravi. Ovviamente abbiamo nominato i vincitori, ma sono 4 ragazzi, tutti bravissimi comunque. Sulla migrazione, Cristobal Olivares, di una zona incredibilmente deserta e incredibilmente impervia, quindi una grande popolazione migrante, mi pare, tra Santo Domingo e il Cile, oppure adesso la Repubblica Dominicana, ecco, per essere più precisi, scusate, ho fatto un refuso, fino ad arrivare al Perù, Bolivia e Cile. Anche lì vi è una grande migrazione di persone, le fotografie che le ritraggono nel deserto, di spalle fra l'altro, sono veramente spettacolari. E poi Mary Bastashevsky, anche in questo caso un po' difficile da pronunciare, che ha portato una denuncia fortissima su quello che succede sull'acqua pubblica, che pubblica non è negli Stati Uniti d'America, ma per colpa di un'industrializzazione scriteriata ha portato un grave inquinamento di piombo all'interno delle falde, quindi tutto questo abbandono e questa mancanza di acqua è stato denunciato fotograficamente. Anche in questo caso comunque un'esposizione molto toccante, molto bella. Arriviamo al motivo per cui insomma a questo punto troviamo l'altro vincitore. Mi arriva il motivo per cui William Piana parla inglese. Parla inglese come per magia, male, ma perché? Mi arriva la telefonata, devi assolutamente andare al MAST. Andiamo al MAST, sì, perché c'è una mostra dedicata al fiume Po. Magia, improvvisamente, ok, va bene, andiamo al MAST e conosciamo. Ma chi la fa questa mostra? Un giapponese. Ma come un giapponese? Questo vuol dire che quando il paesaggio, il panorama è intenso, eterogeneo e variegato, tutto ci sta, e ovviamente la bellezza non ha confine né nazione. Lui giovanissimo, gentilissimo quanto timido, Sohei Nishino. Io ho vinto anch'io, la mia ignoranza per quanto riguarda, è uno stimolo però magari, ovviamente. Per tornare. L'ho intervistato, facciamo una traduzione in tempo reale, cercando di rendere al meglio insomma anche la comprensione di questi contenuti, perché ritrovare il grande fiume in 30.000 scatti, divisi, risezionati. In 5 mesi. In 5 mesi di lavoro. Ma voi dite, ma come 30.000 scatti li vediamo tutti assieme? È impossibile. No, ha fatto come una mappa di tutto questo. L'ha chiamata proprio mappa lui. Mappa, collage, sembra veramente una foto storica. Poi è enorme, ragazzi, è enorme. Bellezza infinita. Sentiamo l'intervista, proviamo anche di fare una cosa magica, cioè tradurla. Radio Città Fujiko di Bologna. Okay. And Shai, what the matter you choose Po River? Per quale motivo hai scelto il fiume Po? Like there are some reason why I choose. Ci sono diverse ragioni per le quali ho scelto il Po. Po River. And one is I wanted to see the river, the water, how the water coming from è perché ho voluto conoscere il paesaggio cangiante, eterogeneo, da come discende dalle montagne fino ad arrivare al mare. The film. E poi perché volevo anche conoscere come le persone vivevano tutto ciò. E poi anche grazie a un film che mi ha impressionato tantissimo, di un regista italiano, Ermanno Olmi. Ermanno Olmi. And is when I watched his movie, I really impressed the people, like how people connect with the water, the river, as a river. So yeah, how many shots? Quante fotografie? Yeah, it took 30,000 photographs. 30,000 fotografie. For making collage work. About the river, about the sea project in the future. You talk about Venice. A proposito di progetti tra mare, fiume, acqua, tu hai parlato di Venezia. Venice for making a map, but it's a little bit difficult. Sì, allo stesso modo vorrei fare una mappa anche di Venezia, però sono tante le città vicino al fiume Po che vorrei conoscere. Certo, Venezia è una grande bellezza, è una grande emozione, però non deve essere facile, anche perché io ci metto 5 mesi almeno per fare un lavoro del genere. Everything, make it, yeah. And I like very much the Po and the delta of the Po near the sea. Your feeling about it? Io sono innamorato del delta del Po e quando tu vedi queste immagini, quando tu vedi il delta, qual è il tuo sentimento? Quali sono le tue emozioni? Gap compared from the mountain and the sea. The view is also different, like... È che la bellezza è completamente diversa dalla montagna al mare, ma non solo. Trovo in un panorama del genere, soprattutto vicino al delta, un aspetto dinamico, incredibilmente dinamico. The view is always change feeling for me, and also. E quindi le mie emozioni sono completamente diverse, cambiano in continuazione in un panorama del genere. E lo trovo così, sempre in movimento. Thank you very much. Nice to meet you. Beh, grazie, piacere di averti conosciuto. Puntatona, Carlotta, puntatona piena, bella piena, sei stanca, adesso vai a letto. No, sì, comunque una bellissima puntata, ma come anche la mostra di ieri. Sì, la mostra è eccezionale, quindi vedete, non è che uno abbia dei pregiudizi, ha semplicemente un gusto personale. È facile, ti hanno messo il delta del Po, e cosa vuol dire? Quindi se una cosa mi piace devo autocastrarmi e non dirlo, no, assolutamente, poi che l'abbia apprezzato un giapponese, wow. Ma poi anche Sara è stata una rivelazione, quindi... Sì, in tutti vi è ricerca oltre che l'immagine e ovviamente il tema che è il lavoro, se vogliamo, quello che si svolge intorno a un determinato ambiente oppure che fa ricerca scientifica grazie all'immagine. Tutto ciò al MAST fino al 1° maggio. Ricordo che l'ingresso è gratuito, è una mostra assolutamente da non perdere e che dire, un consiglio, gli mettiamo l'hashtag Willato. sì, questa volta sì. La dieta della Silicon Valley, l'edipeo enciclopedico, non la voglio conoscere, ma la conosceremo assolutamente tra poco, grazie a Roberto Raspadori e Piero Di Domenico. Noi ritroviamo Carlotta mercoledì per lo spazio di Voltiamo Pagina, Valeria Sacco invece che salutiamo e abbracciamo giovedì per un ritorno al Rinascimento con Raffaello alla Gamet di Bergamo, e che dire, domani, restando più a un futuro vicino a noi, Erika Verdecchia, il trio di una grande redazione culturale, grazie ragazze, numero uno. Tutti i tempi. Domani con Erika Verdecchia invece la solita ma sempre diversa rassegna teatrale, che dire, tra poco dopo le Dipeo pubblicità, poi Radio Zanardi, rassegna stampa curata da Alfredo Pasquali. A noi non resta che salutare. Esattamente, potete seguire le nostre pagine dei social, la social manager, grande. Facebook e Instagram. Tutto. Sia di Radio Città Fucico, sia di Breakfast Club, sia della Rivincita del Biondo. Chi più ne ha più ne metta. Una buona giornata da William Piana e Carlotta Clarese. Ciao, ciao a tutti.